24 mattino estate con Irene Zerbini. Siamo tutti d'accordo che ci sono cose che non possono essere vendute, non hanno un prezzo. Beh, mentre ci pensiamo, intanto buongiorno da Irene Zerbini, ben ritrovati. Oggi il 4 agosto, è mercoledì, e a portarci a questa domanda è stata una notizia che abbiamo appreso recentemente e riguarda le Dolomiti. Potrebbero avere un prezzo proprio così, con tanto di cartellino appeso, perché sono state valutate fino all'ultimo euro, anzi fino all'ultimo centesimo, per un'operazione detta di federalismo demaniale che tra poco illustreremo con i nostri ospiti. Intanto comincio a ricordarvi anche il tema della mattinata, quello che caratterizzerà la trasmissione: bianco o nero. Scatta dalle 8:30 e ci fermeremo questa volta lontani dalle Alpi, ma in mezzo al Mediterraneo. Partono le trivellazioni della BP, anche dalle nostre parti, in Libia per l'esattezza. La compagnia britannica BP infatti da qui a breve perforerà il primo di 5 pozzi nel Golfo della Sirte. Questo ha generato preoccupazioni in Italia e non solo, in tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. È stata poi la ministro Stefania Prestigiacomo a proporre a livello europeo una moratoria nelle trivellazioni del Mediterraneo, che non significa uno stop, significa pensiamoci, fermiamoci, accordiamoci e poi procediamo. E voi come vi sentite? Il Mediterraneo è a rischio? Stiamo tranquilli? Si è imparato qualcosa dalla lezione del Golfo del Messico e dunque non si ripeterà mai più quanto abbiamo visto, le immagini che ancora abbiamo negli occhi? Questo è quanto oggi vi abbiamo chiesto, e se volete partecipare alla nostra discussione, dire la vostra, non esitate innanzitutto a votare sul sito di Radio 24, www.radio24.it, e comunque a contattarci il numero SMS 349 238 6666, o al telefono 800 24 00 24, ma quello naturalmente alle 8:30. Torniamo alla nostra operazione di federalismo demaniale e discutiamone con Andrea Franceschi, che ringrazio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Andrea Franceschi è il sindaco di Cortina d'Ampezzo. Ha dormito stanotte, sindaco? Ma sì, sì, si dorme sempre senza problemi, nonostante le polemiche. E Franco Brevini, giornalista, ma soprattutto scrittore, docente di letteratura italiana all'Università di Bergamo e amante del patrimonio italiano. Buongiorno Brevini. Buongiorno. Lei si è chiesto ieri dal Corriere della Sera: ci sono cose alle quali non si può dare un prezzo, tanto è importante il valore di queste cose. Allora, un passo indietro e spieghiamo cosa è successo. Chi ha dato il prezzo alle Dolomiti e a una lista infinita di altri beni, che possono essere caserme, strade, magazzini, fabbricati industriali, edifici parrocchiali, canali, terreni, insomma, tutte cose che erano di proprietà del demanio, dello Stato, e sono state trasferite tecnicamente agli enti locali in base a questo federalismo demaniale. Cos'è successo, professor Brevini? Ma diciamo, quello che è successo è abbastanza kafkiano, nel senso che almeno per quanto riguarda le montagne, poi il resto della questione io non la conosco, ma improvvisamente ci si è trovati di fronte a una sorta di lista della spesa in cui le montagne, alcune fra le montagne più meravigliose delle Dolomiti, e segnatamente quelle che stavano sopra Cortina, poi il sindaco forse ci spiegherà perché questo è accaduto, si vedevano assegnati dei prezzi, e già l'idea di assegnare il prezzo a una montagna mi sembra una cosa che è fuori del mondo, insomma, montagne anche popolarissime, conosciute da tutti i turisti che da anni frequentano Cortina, gli alpinisti che vanno lassù per arrampicare, ma prezzi oltretutto che colpivano per il fatto di essere estremamente modici, insomma, cosa che forse a Cortina non è così consueta. Voglio dire, montagne come il Cristallo costavano meno di un appartamento modesto a Milano, e questo ha lasciato tutti perplessi, perché si poteva, e soprattutto di un appartamento a Cortina, perché i prezzi al metro quadro sono cifre da capogiro da quelle parti. Ma sono appunto queste cime che lei ha nominato tra i beni demaniali che lo Stato ora dismetterà in qualche modo, li trasferirà agli enti locali, cominciando dai comuni, e lei ha parlato del Monte Cristallo. Sì, ma è di questo che si tratta, per un'anomalia appunto sulla quale il sindaco è certamente più competente di me per raccontarci le ragioni che hanno condotto a questa vicenda. Vicenda che peraltro resta un poco grottesca e credo che tutti quanti siano rimasti un po' scandalizzati, perché indubbiamente è proprio vero che la realtà supera ogni possibile immaginazione, perché mai ci saremmo sognati di trovare per esempio le tofane che sono diciamo, per esempio le tofane adesso, ecco, la tofana di Rozes e di Mezzo insieme alle rocchette costano solo 175.707 euro, cioè voglio dire, non c'è fine al peggio proprio. Guardi che c'è qualcuno che sta già preparando l'assegno da staccare per aggiudicarsene una. Ora è chiaro, sembra detto così qualcosa, un timore di quelli lontani, una dietrologia, invece è successo davvero, fa parte del federalismo demaniale. E Paolo Franco, che è un senatore della Lega, che con tutto il gruppo della Lega al Senato aveva sollecitato l'agenzia a pubblicare sul sito del demanio l'elenco dei beni, ha poi anche commentato: finalmente si potrà visionare questo patrimonio che poi passa sotto la competenza dei comuni. C'è anche Zaia, il governatore del Veneto, che ha applaudito all'operazione. Mi sembra una cosa buona, stiamo andando nella direzione giusta anche dal punto di vista dei simboli, devono essere gli enti locali a possedere questi beni demaniali. E il sindaco di Cortina, e oggi con noi, Andrea Franceschi, invece non la pensa così. Quali sono i suoi timori, sindaco? No, io condivido quello che dice il presidente Zaia, quindi io sono favorevole al fatto che le montagne ritornino di proprietà dei comuni, anche perché, come diceva giustamente il professore, io così ho le stesse perplessità sulle cifre che il demanio ha. Quindi sono ha le cifre che la lasciano perplessa. Dice: non è una vendita, questa è una svendita, se qualcuno... Ma più che una svendita, in verità poi l'operazione verrà fatta gratuitamente, ma è una valorizzazione che così non si capisce da quali calcoli astrusi venga fuori. Del resto questo è l'inventario di proprietà del demanio, quindi è possibile anche che ci siano cose vecchie che sono state attualizzate piuttosto che calcoli che noi non conosciamo. Però il nocciolo della questione è che Cortina è un'anomalia, se vogliamo, perché è un comune che non ha la proprietà delle proprie montagne per una questione bellica, perché alla fine del primo conflitto mondiale Cortina è passata dall'Austria all'Italia, quindi è stato un po' un bottino di guerra, e quindi per motivi più che altro poi formali non si è mai provveduto a ripristinare la proprietà in capo al comune. Questa è un'anomalia che riguarda Cortina, che riguarda il comune di Livinallongo del Col di Lana qui vicino, ma che per esempio non riguarda tutti i comuni della provincia di Bolzano, della provincia di Trento e anche i comuni che stanno a sud rispetto a noi, quindi tutti quelli del Cadore. Siamo un po' così una mosca bianca, quindi chiediamo semplicemente che venga fatta un po' di giustizia e che la proprietà ritorni in capo a noi. Fatto salvo poi che bisogna anche sottolinearlo che in tutti questi anni sicuramente non è stato il demanio a curare, a pulire, a tutelare le montagne e il territorio. Questo, per esempio, parlando di territorio, i volontari, il CAI, da chi dipendono oggi? Sì, e da chi vengono finanziate? Come dice giustamente lei, è stato proprio il CAI, le guide alpine, le associazioni locali, che sono associazioni autonome, che hanno una propria appunto libertà d'azione, ma che poi si naturalmente godono di contributi e di sostegni da parte del comune, da parte della regione, e pertanto voglio dire, il demanio all'atto pratico insomma non ha fatto nulla per tutelare il patrimonio, e credo che poi questo sia anche il motivo per cui si è deciso di passare tutti i beni agli enti locali, in maniera che possano essere così curati, e valorizzati meglio. Diamo qualche cifra: le tofane 175.707 euro, Monte Cristallo 259.459 euro, e ci sono poi Colorosà, Croda del Becco, che sono valutate intorno, questo non è un errore, risulta proprio dalla website, dal sito internet del demanio, 11.000 euro. Ora, quello che si teme è che con questo trasferimento, con tutto che Cortina, come ci ha spiegato lei, sindaco, è un'eccezione e plaude all'iniziativa, si teme che un domani altri comuni che possano trovarsi per le più svariate ragioni in crisi economica o con la necessità di far cassa per far fronte ad altri servizi da erogare ai cittadini debbano passare alla vendita. Secondo lei c'è questo rischio, Franco Brevini? Ma guardi, noi speriamo sempre di no, però lo scrivevo ieri sul Corriere, no? Anche Gesù dice non tentare il Signore e Dio tuo, figuriamoci qualche sindaco che ha bisogno di far cassa. Io credo che l'occasione sia buona anche per porre un problema più grosso, quello davvero dello stato di conservazione e di tutela delle Dolomiti. Perché ci sono dei fatti, per esempio, che sono sconcertanti. Mi dicono che da qualche tempo si sta facendo una grande strada in Valle di Antersasch all'interno del parco naturale Puez Odle, distruggendo la Riceti millenari. Questo è un problema, con buona pace della proclamazione delle Dolomiti nel patrimonio dell'ONU, dell'UNESCO. Sì. Oppure le Dolomiti sono patrimonio dell'umanità, ricordiamole, dal patrimonio umanità, dal giugno dell'anno scorso. Non sono né dei veneti né degli italiani, di nessuno, sono dell'umanità tutta. E badi che questo patrimonio è messo a rischio da fenomeni che apparentemente ci paiono poco allarmanti, come il traffico sui passi dolomitici. Io sono stato recentemente ad arrampicare sul gruppo Sella e si arrampicava con il frastuono delle motociclette che imperversavano sui passi dolomitici. Ora, questo è un problema vero che deve essere affrontato, uno dei tanti problemi che devono essere affrontati, a fronte di quali le cifre del demanio sono la follia di qualche burocrate e ci fanno solo ridere, e se no, suscitandoci qualche senso di ripugnanza kafkiano, come dicevo, ma ci sono problemi sul tappeto che sono gravissimi. Anche prima di questo federalismo demaniale. Fermiamoci qui per ora, questi beni naturalmente sono stati in qualche modo inventariati, abbiamo contattato il demanio e abbiamo chiesto ragione di questo calcolo fino all'ultimo euro, con un prezzo base, diciamo così, ma è ovvio che una volta messi sul mercato potrebbero fruttare ben di più, anche fino a 100 volte di più. Grazie ad Andrea Franceschi, sindaco di Cortina d'Ampezzo, e a Franco Brevini, scrittore e giornalista. Vi ricordo, oggi tratteremo un altro tema legato all'ambiente e alla possibilità di incidenti durante le trivellazioni. Tra poco si comincia a perforare, la britannica BP esattamente comincerà a perforare il primo di 5 pozzi nel golfo della Sirte. Qui stiamo parlando di zona Libia, stiamo parlando di 500-600 km dalle coste italiane. Vi sentite al sicuro? Il Mediterraneo è a rischio? Questa è la domanda che vi abbiamo fatto. Se volete rispondere, www.radio24.it. Abbiamo parlato di news, intendiamo informazione scritta. Tra pochissimo infatti la rassegna stampa con Roberta Giordano, che saluto. Buongiorno. Ciao Irene, ciao alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Inevitabilmente politica in primo piano, una giornata campale. Grande appuntamento, certo, oggi. Quella di oggi. E che altro hai trovato? Guarda, tantissime cose ovviamente, però io darei un po' di spazio agli esteri. Venti di guerra purtroppo tra Libano e Israele al confine. E poi una cosa, qualcuno si chiede, Irene, ma gli italiani sanno ancora nuotare? Me lo chiedevo anch'io, osservando certe scene patetiche di questi giorni, e chissà, ti seguiremo anche per avere questa risposta praticamente molto estiva. L'informazione, la rassegna stampa con Roberta Giordano. In primo piano. E quindi poi ce lo chiederemo, vedremo chi è che in particolare se lo chiede, insomma, una notizia questa che riguarda il costume, ma anche che ci dice appunto come stiamo diventando. Però dicevamo naturalmente che, diceva René Zerbini, la politica è ovviamente in primissimo piano su tutti i quotidiani, anche perché oggi è il grande appuntamento, no, del scenario politico italiano. Poi anche tutti gli italiani, che forse per tanti versi sono ormai disincantati, disaffezionati alla politica, questo lo vedono quasi, lo ricordo Piero Stellino due giorni fa, sul Corriere, quasi come un'eccitazione collettiva a capire che cosa succederà adesso con la sfiducia che si vota oggi al sottosegretario Caliendo, no? La divisione tra Finiani e Berlusconiani e gli scenari che si potrebbero aprire in seguito a questo voto che si terrà questo pomeriggio intorno alle 17. Però prima di andare direttamente sui quotidiani che aprono, diciamo, in modo abbastanza scontato inevitabilmente, guarderei l'apertura del Sole 24 Ore l'apertura del Sole 24 Ore è su Opere Sprint per ripartire. È un'intervista a Tremonti, che tra l'altro molto protagonista di questi ultimi giorni, perché da più parti si dice che persino il PD sarebbe favorevole, in caso di caduta del governo Berlusconi, non tanto a elezioni ma un governo di transizione con Tremonti premier, appunto presidente del Consiglio. Quindi Opere Sprint per ripartire, oggi il via al federalismo municipale con aliquote ridotte, un piano, dice Tremonti, per abbattere costi e tempi. E poi dice lui stesso: io premier faccio il ministro, parlo di economia. Vabbè, uno si schermisce naturalmente, poi vedremo invece quali saranno gli esiti, i risultati. Poi sempre 24 Ore riporta questo avvicinamento che ci dovrebbe essere alla Consob, l'organismo di controllo della borsa italiana. Catricalà verso la Consob, oggi la scelta del governo. Allora, poi invece andiamo a guardare appunto le aperture più che ci si aspetta rispetto appunto all'evento oggi politico. Quindi Corriere della Sera, Maroni che dice si può votare in autunno, quindi il ministro degli interni italiano addirittura così molto esplicito dice si può votare in autunno, parla direttamente di elezioni. Fini astensione con UDC e Rutelli su Caliendo, questo è l'orientamento appunto già dichiarato nei giorni scorsi, cioè dichiarato insomma un'ipotesi piuttosto attendibile, ma lascia libero chi è al governo, infatti dice i ministri votino pure col governo. Intervista in questo caso con il ministro Maroni. Diversi giornali oggi aprono su interviste a ministri, in particolare abbiamo visto Il Sole appunto con Tremonti, Corriere con invece il ministro Maroni che dice si può votare in autunno. Poi c'è Il Messaggero che invece fa un'intervista a Gasparri, ex Finiano, che insomma adesso è in quota più PDL, in quota PDL. La Stampa, il premier alla prova di Fini, il presidente della Camera dice sarò leale, quindi sottolinea questa cosa che già aveva annunciato pure con la fuoriuscita dal PDL, dicendo insomma continueremo a essere leali, ma sempre se le proposte del governo saranno in linea con quello che pensiamo. E poi su Caliendo si astiene con il centro, quindi qualcuno lo dà già insomma come una decisione presa questa, ed effettivamente è piuttosto credibile. E poi vediamo ancora su Repubblica, patto Fini UDC, l'ira del premier, oggi la conta effettivamente su Caliendo, l'ex leader AN dice i ministri votino col governo, quindi qua non è soltanto lasciare libero, ma addirittura dice dà un'indicazione precisa, votino col governo. Il presidente della Camera stringe l'accordo con Casini, Rutelli e Lombardo, quindi con il centro insomma Casini, l'UDC, Lapidi, Rutelli e Lombardo in Sicilia col Movimento per le Autonomie. E Bersani dice meglio Tremonti che le elezioni ora, vedete che ritorna continuamente questo leitmotiv di Tremonti che potrebbe essere anche non inviso anche al PD. E poi vi ricordo anche sulle prime pagine naturalmente c'è la scomparsa di una grandissima editrice come Elvira Sellerio, la signora di Sciascia e Camilleri. Su Repubblica c'è Antonio Tabucchi che dice, scrive questo pezzo intitolato L'intelligenza elegante, che è un aggettivo che moltissimi attribuiscono oggi a Elvira Sellerio. Tra l'altro un successo quello della sua casa editrice tutto femminile, tanto che in questa casa editrice lavorano soltanto donne tranne il figlio di Elvira Sellerio. Però ritorniamo allora alla notizia principale, alla notizia di apertura, e andiamo a vedere anche un po' di retroscena. Per esempio dalla Stampa, la Stampa che dice che rispetto a questo che sta avvenendo, al voto di oggi, al centro che si coalizza, insomma, questo asse Fini, Rutelli, Casini, dice la Stampa a pagina 4, spiazzato il PD, Fioroni e i suoi attratti dal centro. Andiamo un po' a vedere il caso, proprio lo presentano come il caso, il terzo polo che per Pier Ferdinando Casini definisce per ora un'area di responsabilità, anche perché se sarà terzo polo lo scopriremo solo vivendo, citando veramente Battisti. Di certo Francesco Rutelli ci scommette e parla di patto di consultazione pur mantenendo distinte le rispettive responsabilità. E già le responsabilità, ma soprattutto la leadership, che affronta subito un navigato centrista come Pierluigi Castagnetti. Pierluigi Castagnetti nel PD dice: cosa vanno a fare? Uno il segretario, l'altro il premier e l'altro ancora il presidente della Repubblica, cioè i tre che si stanno alleando. Siamo seri, aspettiamo settembre, così forse le cose saranno un pochino più chiare. Per ora, osserva Beppe Fioroni, che ha una nutrita pattuglia di fedelissimi, si dice addirittura 48 parlamentari pronti a rompere l'argine e a lasciare il partito, dice: il fatto è che Fini e Casini potrebbero votare oggi allo stesso modo, e questo è politicamente rilevante, così come è rilevante il disagio che in questi mesi ha manifestato dentro il Partito Democratico proprio Fioroni. E quindi ci potrebbe essere, ecco, uno scenario anche che ipotizza la stampa, e che qualcuno potrebbe addirittura dal PD emigrare verso il centro. Questo, tra l'altro, a proposito di PD, il Fatto Quotidiano apre in un modo piuttosto originale, diciamo con una domanda che si potrebbe definire quasi astrofisica, astronomica: c'è vita nel PD? Punto interrogativo. Sottotitolo: Fini, Casini, Rutelli. Ancora appunto questo asse, prove di terzo polo sul caso Caliendo. Berlusconi minaccia tutti e cerca le elezioni anticipate. Grandi manovre, ma la paura delle urne paralizza i democratici. E Marco Travaglio nel suo editoriale che cosa dice? Leggiamone un pezzetto. C'è vita nel PD ora che il PDL scoppia? Nemmeno i rilevatori più sensibili, quelli in grado di captare il battito delle ali delle farfalle, riescono a cogliervi minime tracce di attività vitali. Anzi, più si sentono parlare i cosiddetti leader di quella che dovrebbe essere l'alternativa al regime che frana, più si capisce che non hanno nulla da dire. Quando sono proprio al massimo dell'attività cerebrale, scrive Travaglio, non riescono ad architettare che governicchi tecnici, istituzionali, balneari, ammucchiatine ribaltoniste, buone solo a evitare ciò che più di ogni altra cosa terrorizza, cioè terrorizza il PD, le elezioni, anzi gli elettori. Abituati a far politica a tavolino, a prescindere dalla gente, non riescono nemmeno a immaginare qualcosa di decente che convinca gli italiani a votarli. Quindi un attacco durissimo del Fatto Quotidiano, in particolare di Marco Travaglio, al PD in questo frangente politico. Poi vediamo invece il Manifesto, che in qualche modo è in linea in questo caso col Fatto Quotidiano, che apre con una grande foto in cui sono ritratti appunto il ministro Tremonti e Bersani, che si sorridono molto cordialmente uno di fronte all'altro. Il titolo enorme a centropagina: qualcosa di sinistro. Tremonti premier di un governo di transizione, il segretario del PD Bersani non dice di no. Non faccio nomi, dico solo che la cosa meno sensata è andare alle urne, dice Bersani, con questa legge elettorale. Oggi appunto il voto sulla sfiducia a Caliendo, Finiani e centristi si asterranno, il sottosegretario non rischia, ma è alta tensione. Il sottosegretario ovviamente è Caliendo. E poi invece, sempre restando sulla politica, il Corriere della Sera, andiamo a vedere l'editoriale di Pierluigi Battista, che si intitola La maggioranza evanescente. Non sarà il terzo polo, come si affannano a dire gli stessi protagonisti, ma il patto siglato sul caso Caliendo tra Finiani, UDC, Lapi di Rutelli e l'MPA di Lombardo, un'ottantina almeno di voti parlamentari, spezza simbolicamente l'autosufficienza della maggioranza uscita dalle urne del 2008. I numeri dicono che la soglia dei 316 parlamentari necessari per sancire la maggioranza del governo alla Camera non si raggiunge senza l'apporto del nuovo Futuro e Libertà di Fini. Fini, appena estromesso con atto d'imperio dal PDL, aveva avvisato che il voto favorevole dei nuovi separati sarebbe stato garantito solo sui provvedimenti in linea col programma elettorale nel patto con gli elettori. E poi, alla fine, andando un po' avanti con l'editoriale di Pierluigi Battista, dice: insomma, un pasticcio che forse si poteva evitare se Berlusconi, prima della clamorosa rottura con Fini, non avesse sottovalutato i numeri dell'avversario, facendosi orientare da consiglieri poco accorti e poco avvezzi alle insidie del pallottoliere parlamentare. E poi andiamo verso la conclusione dell'editoriale di Pierluigi Battista. Per Berlusconi le elezioni possono essere comunque la soluzione ricercata e desiderata. La prospettiva di una nuova vittoria autorizzata dalla debolezza dell'avversario e dalla confusione in cui versa l'attuale opposizione. Quindi si continua a parlare, insomma, di questa opposizione piuttosto confusa. su La Padania, a proposito invece di chi ritiene di sapere che cosa fare, che cosa si vuole, Bossi e la Lega, questa è l'apertura della Padania, Bossi e la Lega non si fanno incantare dalle chiacchiere, bisogna portare a termine il ciclo riformatore e toccare con mano il federalismo. Mentre invece sulla Stampa, a proposito di leghisti, la Stampa non è molto tenera e con un commento di Michele Brambilla, che ci richiamo in prima pagina, poi da approfondire a pagina 7, dice: i disorientati della Lega, Caliendo, la nostra gente non sa chi sia. Vediamo di andare magari a prendere il seguito a pagina 7, appunto abbiamo detto, relativo appunto ai retroscena commentati da Michele Brambilla. Dice appunto: oggi il grande appuntamento sulla discussione relativa alla sfiducia al sottosegretario Caliendo. Ebbene, il padano a Roma, dice Brambilla, è facilmente identificabile, non avendo i romani l'abitudine di circolare con la cravatta verde o il fazzoletto verde nel taschino. Scappa via perché non ha nemmeno tanta voglia di parlare, dice il tipico lombarda, di cose astruse. Il deputato bresciano, per esempio Daniele Molgora, sono ben altri problemi, dice. A noi interessa il federalismo. Gli chiediamo se ha mai parlato con i suoi elettori bresciani del caso Caliendo. Non sanno neanche chi è, risponde. Come tanti suoi colleghi, ha l'impressione che si stia perdendo tempo, ma resta fiducioso. Noi abbiamo, per fortuna, abbiamo la fortuna di avere Umberto Bossi. Questo quindi per quanto riguarda appunto la politica e la notizia di apertura un po' di tutti i quotidiani. Fra l'altro c'è un altro fatto molto interessante e grave, che non ha grande spazio sulle prime pagine, che però la Stampa poi tratta con un certo spazio a pagina 9, ed è una forma, insomma, possiamo dire, di denuncia del deputato Granata, Fedelissimo Finiano, che poi ricorderete quello che con la sua accusa nei giorni scorsi su Via D'Amelio, cioè sulla strage in cui è morto il giudice Borsellino, dice: su Via D'Amelio aveva detto: ci sono settori di Stato, governo e politica che ostacolano le indagini. Lui, che ha portato a fine luglio, insomma, a un livello di non ritorno le tensioni interne al PDL. Granata, che non solo Fedelissimo Finiano deputato, ma è vicepresidente della commissione antimafia, e sostiene, che cosa ha detto? Che i mafiosi sono eletti nelle regioni, sostiene che i partiti non abbiano vigilato al momento della scelta dei candidati alle regionali, quindi un'accusa questa molto, molto grave. Fra l'altro vi ricordo che ieri è stato approvato il piano straordinario contro le mafie in Parlamento, e il Presidente del Consiglio ha detto: combattiamo con i fatti e con i record. In primo piano. Sempre Roberta Giordano con voi, ascoltatrici e ascoltatori, a raccontarvi un po' quali sono le notizie riportate dai principali quotidiani nazionali. Abbiamo parlato molto di politica, accennando anche ad altre notizie finora, però resterei ancora perché il materiale è moltissimo, e sapete, oggi vi ricordavo che appunto c'è il grande appuntamento dell'agone politico italiano, si vota oggi la sfiducia al pro o contro, insomma, al sottosegretario Caliendo, e questo è un grosso banco di prova ovviamente per la tenuta del governo, con tutti gli scenari abbiamo detto che si potrebbero aprire. Il giornale titola: pronti alle elezioni in ottobre. Questa è, dice, la tentazione di Silvio. Oggi si vota la sfiducia al sottosegretario Caliendo. I finiani decidono di astenersi insieme ai centristi, mettendosi di fatto all'opposizione. Berlusconi non ha intenzione di farsi folgorare, dice il giornale. E Maroni dice: alle urne in autunno non c'è problema. E non molla il colpo il giornale sulla questione della casa Monte Carlo, che in qualche modo si riferirebbe a Fini o comunque al fratello della sua compagna Tulliani. E c'è il titolo: è scatole cinesi per far sparire la casa a Monte Carlo. Sapete che proprio negli ultimi due giorni Fini ha deciso di querelare il giornale per questa campagna che ritiene appunto nei suoi confronti diffamatoria. Questa casa, ve lo ricordo ancora una volta, che sarebbe stata lasciata in eredità ad Alleanza Nazionale qualche anno fa dalla contessa Colleoni, che poi dopo è passato attraverso varie società, è stata venduta eccetera, e dopo sembrerebbe che sia in questo momento in affitto appunto al fratello della compagna di Fini. Quindi scatole cinesi per far sparire la casa Monte Carlo. E c'è l'intervista a centropagina segnalata con la foto, intervista a Donna Assunta Almirante, che non è molto tenera confini. Andiamo a rivedere l'intervista a pagina 4 del giornale. Monte Carlo, che pasticcio, dice Gianfranco, mi ha deluso. La vedova dello storico leader dell'MSI, appunto Almirante, mi sono pentita di aver sostenuto con Giorgio il giovane Fini, ora su di lui non metterei la mano sul fuoco. Questa è il giornale che dà appunto ampio spazio a questa intervista ad Assunta Almirante. E Libero, diciamo che resta abbastanza vicino alle aperture, alle posizioni del giornale, perché il titolo è Lady Fini, ho vinto all'otto, Monte Carlo e dintorni. L'impero Tulliani, per giustificare tutte le proprietà della famiglia e gli ultimi acquisti immobiliari, Elisabetta, appunto Elisabetta Tulliani, compagna di Fini, chiama in causa la dea bendata, cioè il superenalotto. Ma allora perché il fratello vive in un appartamento ex AN, si chiede Libero. E al centro sempre la politica per Libero, con un disegno, un grosso disegno, dove c'è una balena bianca, sapete la balena bianca, simbolo della vecchia DC, con sopra cavalcata praticamente da Fini in pole position, poi dietro c'è Casini e dietro Rutelli. Aiuto, torna la DC, questo è il titolo. Fini, Casini, Rutelli e perfino il siciliano Lombardo ufficializzano la grande intesa. Oggi alla Camera, la prova generale, ma già studiano un programma stile Forza Sud. Che questa ipotesi, questa teoria, insomma, che ci sia una parte della politica italiana, soprattutto di centro e magari anche in un futuro, diceva qualcuno in questi giorni sui giornali, qualche editorialista cappeggiata dal PD, potrebbe aggregarsi intorno appunto a un movimento che porti in primo piano il Sud, con quali esiti non si sa, ma queste sono appunto delle teorie che circolano in questi giorni. A proposito di economia, abbiamo aperto con Il Sole che parla di questo calo della produttività in Italia, allora andiamo a prendere anche almeno una pagina di economia, quella del Corriere, pagina 28. Il titolo è La retromarcia della produttività italiana. In 3 anni perso il 2,7%, crisi e minori investimenti minano la competitività. Il settore, secondo l'Istat, che tiene meglio è l'agricoltura, l'industria cade del 3,9%, giù costruzioni e commercio. E poi sul Messaggero, sempre a questo proposito, c'è l'editoriale di Oscar Giannino, vi ricordo che ci sarà più tardi, qui a Radio 24. La riforma del lavoro non può aspettare, questo è il titolo dell'editoriale, leggiamo almeno proprio l'inizio. Devono far riflettere i dati sulla bassa produttività italiana, resi noti ieri dall'Istat, tra il 2007 e il 2009, scesa del 2007, ma è un problema che viene da lontano. Nell'intero arco trentennale, tra il 1980 e il 2009, è cresciuta solo dell'1,2% anno. La Banca d'Italia evidenzia che nei 10 anni precedenti la crisi, la produttività per ora lavorata è salita del 3% in Italia contro il 14% dell'area euro, quindi pochissimo rispetto appunto al resto d'Europa è cresciuta la produttività in Italia. Sul foglio di Ferrara, sempre una questione che ha a che fare con la politica e nello stesso tempo anche con le inchieste, in taglio basso c'è questo commento che si intitola Dell'Utri e il valzer delle tre procure, con un occhiello, un sottotitolo sentirete piuttosto ironico: chiude Caltanissetta e riapre Firenze, chiude Firenze e riapre Palermo, una staffetta infinita tra le procure per inchiodare tra virgolette il mandante occulto delle stragi, cioè Dell'Utri, secondo loro, che per loro ovviamente proprio occulto non è. E andiamo proprio a leggere direttamente la conclusione di questo commento. In questa staffetta infinita, appunto, tra queste diverse procure che riaprono inchieste su Dell'Utri, viene da pensare alle parole del procuratore aggiunto di Caltanissetta Paolo Giordano: continuiamo a indagare sui mandanti esterni delle stragi del 92 e abbiamo acquisito elementi interessantissimi. Non appena sarà completato il quadro valuteremo le iniziative da adottare. Le indagini non sono affatto chiuse, e in questo chiuso virgolette il magistrato potrebbe averle pronunciate ieri e invece le disse il 26 marzo del 2001. Dopo 9 anni il valzer delle tre procure sulle stragi non perde un giro. Questo è il foglio di Ferrara. E poi andiamo un po' così, c'è un, ecco, dal Corriere, ma anche Repubblica dà moltissimo spazio a questo attacco veramente, non so se dire senza precedente, insomma, veramente duro, di Famiglia Cristiana, che non è nuova, col suo direttore Don Antonio Sciortino al governo e a questa maggioranza, a Berlusconi. Il titolo è Ministri Servitori, l'ira del PDL che dice un attacco arrogante. Andiamo a vedere che cos'è questo affondo di Don Sciortino. Dice: una concezione padronale dello Stato ha ridotto ministri e politici in servitori, semplici esecutori del volere del capo, quali che siano. Poco importa che il paese vada allo sfascio, non si ammettono repliche al pensiero unico e guai a chi osa sfidare il dominus assoluto. Questo è l'attacco di Famiglia Cristiana. E poi segnalerei anche, a parte la Gazzetta dello Sport, diamo spazio anche all'apertura della Gazzetta dello Sport, si parla di pagelle, tra l'altro c'è un'interessante inchiesta sul Corriere della Sera sul fatto che, a proposito di scuole, ci sono tante lodi, voti con lode al sud, al primato, mentre poche al nord. Ci si chiedeva un po', si chiedevano i commentatori, insomma, se fosse una cosa normale. E poi invece vi dicevo, la Gazzetta dello Sport, pagellone d'estate, a proposito di pagelle, ecco i primi voti delle 20 squadre di Serie A, partite, mercato e prospettive, le nostre impressioni sulla stagione che ci aspetta i neroazzurri in pole position. Poi vi dicevo, volevo segnalarvi anche Vanity Fair, era già stata anticipata ieri un'intervista a Elisabetta Canalis che dice, insomma, gli italiani mi invidiano la mia felicità, non sono mai stata felice da quando sono amata da George Clooney. Facciamo anche qualcosa, segnaliamo di leggero. Poi vi dicevo, è La Stampa in prima pagina in taglio basso che dice: ma gli italiani sanno ancora nuotare? Si alzano dall'esdraio e conquistano l'acqua, ma in pochi nuotano, raggiungono il mare per chiacchierare, per combattere il caldo. Le salutari bracciate per raggiungere la boa sembrano solo un ricordo rimasto negli anni 90. E così l'acqua a pochi metri dalla riva diventa un social network, un luogo dove cercare nuovi incontri, fare gossip, parlare di calcio. E gli amanti del dorso e dello stile libero ormai praticano soltanto in piscina. E dentro poi è molto interessante andare a vedere un po', insomma, questa differenza rispetto al passato degli italiani e col nuoto. Chiudo con una notizia che è riportata su vari quotidiani all'interno, la prendo dal Corriere: campane rumorose, Pisa pensa allo stop. È l'Unione Atei che dice basta rintocchi a tutte le ore e il Comune commenta ne discuteremo. C'è la replica dell'Associazione Amici di Pisa: non rumori molesti ma rintocchi della storia. Irene Zerbini forse potrebbe farlo questo come sondaggio, campane sì, campane no. Guarda, Irene, io sentendo buona parte delle notizie che tu hai letto ho avuto un pensiero comune: troppo tempo libero, cioè certa gente ha troppo tempo libero e quindi si concentra sui problemi più svariati. Speriamo tocchi anche a noi, Roberta. Ma lo spero, insomma, avere tempo libero è sempre una qualità di vita invidiabile. grazie, ci ritroviamo domattina, dunque. A domani, ascoltatrici e ascoltatori. Con Roberta Giordano. Noi continueremo, tra poco il notiziario. Voglio ricordarvi l'incontro con i corrispondenti stranieri, coloro che osservano l'Italia da dentro, vivendoci, ma portando un bagaglio culturale diverso. Oggi toccherà alla Grecia e ancora le trivelle di BP, questo l'oggetto del nostro sondaggio, nel mare della Libia, 500-600 km dalle coste italiane. Secondo voi il Mediterraneo è a rischio? Votate sul sito www.radio24.it. 18 minuti dopo le 8, ritroviamoci insieme. Oggi parleremo di Mediterraneo. Va chiarito un equivoco: in Italia si trivella e si estrae oro nero, come viene definito, o greggio, da molto tempo. Dove? In Brianza, nel Parco del Curone, nelle isole Tremiti. Solo per far qualche esempio, nel mare di Cagliari ne avrete viste di piattaforme. L'area, per esempio, tra le Egadi e Pantelleria, nello Ionio Calabrese, ma anche in Piemonte. Eppure questa volta c'è un allarme in più che ha spinto il ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo a chiedere all'Europa una moratoria. Attenzione, fermiamoci un attimo, ha dichiarato il ministro, e troviamo una voce comune noi che abbiamo degli interessi nel Mediterraneo, che condividiamo queste coste, che poi il Mediterraneo è una pozzanghera rispetto agli oceani, ma è un patrimonio, un gioiello dal punto di vista animale, per esempio, culla della biodiversità. E fin quando non avremo chiarito quelle che sono state le cause del disastro nel Golfo del Messico, sospendiamo le trivellazioni, ha detto lei. E su questa linea anche il commissario all'energia europea, Günther Oettinger, oggi sarà nostra ospite, la sua portavoce. Ebbene, no, noi non sospendiamo nulla, ha fatto sapere la BP, e qui sta la differenza, a trivellare questa volta sarà la stessa azienda coinvolta nel disastro e buona parte delle trivellazioni saranno in acque molto profonde, profondità stimata 1700 metri. Questo cosa vuol dire? Che andremo ancora più in basso che nel caso della piattaforma Deepwater Horizon, quella insomma al largo della Louisiana che ha causato il disastro nel Golfo del Messico. E più si va in basso, più la tecnologia stenta a tenere. Da qui preoccupazioni. Questa è la base del nostro sondaggio. Oggi vi abbiamo chiesto, voi come vi sentite? Secondo voi il Mediterraneo è al sicuro? www.radio24.it per rispondere. Prima però facciamo tappa in Grecia, in qualche modo in un altro punto del Mediterraneo, per incontrare Dimitri Deliolanes. Iasu, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Dimitri. Calimera. Ce lo ripeti bene? Calimera, benissimo. Noi italiani, spesso l'avrai constatato, Dimitri, conosciamo più il greco antico che il greco moderno. Perché il greco antico, ahimè, con la pronuncia erasmiana, che è una cosa veramente terribile. Esatto. Per quello ti ho detto, ripetilo rispettando la pronuncia vostra, la pronuncia ai greci. No, ma questo è uguale, Calimera, c'è anche un paese nel Salento che si chiama Calimera, un paese di grecofoni, la Grecia salentina, si chiama Calimera. E ancora mantengono la lingua? Sì, un dialetto di origine greca, sì, con grande difficoltà, però con grande buona volontà, ci sono molte associazioni culturali che si battono per la difesa della lingua, sì. Comunque Dimitri è uno dei nostri amici corrispondenti in Italia, racconta l'Italia nel suo paese e in particolare nella TV pubblica greca. Prima di soffermarci sul disastro della BP, che tra l'altro ha destato preoccupazioni anche tra i tuoi connazionali, vorrei chiederti, Dimitri, di questa tua esperienza italiana, da quanti anni vivi qui? Da parecchi anni, dal 1967. Non farci fare dei conti, 43, quant'è? Sì, parecchi. Sì. 43 anni. E quindi ti senti greco o ti senti italiano? Se te lo chiede un canadese, per esempio, o un ugandese, tu cosa rispondi? Mi sento un greco d'Italia. Che significa? Cosa mantieni della tua cultura? Un greco che vive in Italia. Cosa mantieni tu della tua cultura, del tuo modo di vedere le cose dopo 43 anni qui? Beh, mantengo la lingua, la religione, le tradizioni culturali e ho imparato dall'Italia tantissime cose, in campo culturale in particolar modo. Beh, questo fa piacere. Rapporti, sì, l'Italia è veramente un paese dal punto di vista culturale molto, molto, molto ricco. L'Italia è un paese che si butta molto giù, soprattutto tra gli italiani, e ogni volta che chiacchieriamo con voi, corrispondenti stranieri che vivete qui, in qualche modo l'indice d'autostima sale perché trovate sempre delle cose positive da salvare. Per esempio, detto da un uomo come te, che viene da quella che è definita la culla della filosofia occidentale, la patria della democrazia, dei giochi olimpici, della letteratura, insomma dalla Grecia, fa piacere. In che senso l'Italia, dal punto di vista culturale, è ancora valida? Beh, ti faccio un esempio. Io sono un grande ammiratore, sono veramente affascinato dalla scuola dei restauratori italiani, che sono dei veri geni. Io più volte, per ragioni giornalistiche, li ho seguito dei restauri in corso oppure già finiti, e sono veramente affascinato, perché fare un restauro vuol dire sapere tutto sul monumento, no? I restauratori italiani sono universalmente riconosciuti come i migliori del mondo. Solo un esempio ti sto facendo, proprio per far capire ai nostri ascoltatori la ricchezza culturale di questo paese, che spesso viene ignorata dagli italiani stessi, no? L'hai notato anche tu? Sì. È stato pubblicato una statistica del tasso di percezione e della differenza tra la percezione di un paese all'interno della stessa nazione e come invece questo paese viene percepito all'estero. E l'Italia è quella che ha lo scarto maggiore, cioè interrogando gli italiani nella classifica mondiale dei paesi in cui vivere, l'Italia si piazza all'ultimo o al penultimo posto. Interrogando tutti gli altri, invece, l'Italia non è la prima, perché Canada e paesi scandinavi continuano a mantenere il privato, ma si piazza tra i primi 5-6 posti. Insomma, una collocazione più che dignitosa. È interessante questo scarto che fa degli italiani un popolo anche poco nazionalista, poco incline all'autoelogio. Ma molto localista. Sì. Preferiscono elogiare la propria realtà, il proprio comune, il proprio piccolo centro. Questa è la tradizione italiana, è tipico italiano questo, che fa in modo che tanti piccoli centri che in altri paesi europei, anche grandi, siano un po' siano considerati provincia, quindi un po' disprezzati, invece in Italia siano valorizzati e siano posti gradevolissimi dove il tenore di vita sia veramente, dal punto di vista qualitativo, molto molto alto. Anche perché nei piccoli centri in Italia una volta spadroneggiavano signori, duchi. Localismo italiano, sì. Che hanno poi anche contribuito a fare del piccolo centro qualcosa che non abbia solo un orgoglio, ma dei segni chiari anche dal punto di vista architettonico di grandezza. E forse si è trasmesso questo spirito più dello spirito unitario, che invece è recente, se c'è, non c'è, questo è tutto un altro dibattito che potremmo fare, Dimitri. Quindi tu, vivendo in Italia, constati anche delle situazioni di grande differenza rispetto alla cultura greca. Quali sono le cose difficili da spiegare ai greci riguardo all'Italia? Il sistema politico certo non è facile. Una delle ultime corrispondenze era sulla rottura tra Fini e Berlusconi e ovviamente in Grecia il mio caporedattore ha subito interpretato come andiamo verso la crisi di governo. Gli ho detto, non è esattamente così. Gli hai detto, che anima semplice che sei. Ho detto, insomma, vediamo, per il momento la rottura del partito, poi vediamo che conseguenze. Quali saranno le conclusioni, e infatti lo vedremo insieme. Ora, tu hai scritto anche di queste preoccupazioni nel Golfo, ricavate dal disastro del Golfo del Messico, trivellazioni nel Mediterraneo. La Grecia come si colloca? È percepita? È stata accolta questa notizia delle trivellazioni della BP con preoccupazione. Che io sappia, non c'è stata una presa di posizione ufficiale del governo greco, ma so che sicuramente l'opinione pubblica segue questa cosa con grande preoccupazione, appunto perché anche in Grecia il disastro del Golfo del Messico è rimasto negli occhi di tutti, nonostante la crisi, la disoccupazione e i problemi che attraversano in questi giorni il tuo paese. Devo salutarti, Dimitri, è stato molto interessante come al solito percorrere con te questo tuo punto di vista originale. Grazie e buona giornata. Arrivederci. Dimitri Deliolanes è il corrispondente per ERT, la TV pubblica greca. Domani incontreremo il suo collega tedesco che racconta alla Germania l'Italia. Tra pochissimo il nostro sondaggio, il nostro dibattito di bianco o nero. Pensate che il Mediterraneo sia a rischio? Continuate a votare sul sito www.radio24.it. Eccomi, appena è stato allungato un foglio, abbiamo contattato la BP Italia, dice plans to start drilling onshore and offshore in Libya. Nel 2010 seguono delle rassicurazioni, tra poco ve le leggeremo, anche perché BP intende in qualche modo rassicurare l'opinione pubblica dopo il disastro del Golfo del Messico. È chiaro che venga seguita con qualche trepidazione questa operazione di trivellazione nel Mediterraneo, ma soprattutto voi vi sentite rassicurati? Vi sentite a rischio? Sentite che il Mediterraneo potrebbe seguire la sorte del Golfo del Messico? Questo sarà il discorso che affronteremo insieme, cercando non di provocare inutili allarmismi, ma di raccogliere informazioni e farci insieme un'opinione su questo settore decisamente delicato e poco conosciuto, quello dell'estrazione del greggio. Potete partecipare tutti al sondaggio www.radio24.it. Questo è il nostro sito. Io sono o blanco o negro. Gris non voglio essere in mia vita. bianco o nero? E ancora Irene Zerbini al microfono, rinnovo il buongiorno a tutti voi e ai nostri ospiti. Buongiorno a Marlene Holzner, buongiorno. Sì, buongiorno. Marlene Holzner è la portavoce della Commissione Europea per l'Energia e insieme a noi c'è anche Marco Magrini, benvenuto Marco. Buongiorno. Giornalista del Sole 24 Ore, autore di un'accurata inchiesta su tutto ciò che riguarda BP. E Nicola Secchi è direttore del Dipartimento di Scienze Botaniche, Ecologiche e Geologiche dell'Università di Sassari. Benvenuto Nicola. Buongiorno signora, buongiorno. Siamo partiti da un'azione, quella del ministro Prestigiacomo, che ieri abbiamo avvicinato naturalmente a Montecitorio, la nostra Betta Fiorito, agguerrita, e ha chiesto di alla Prestigiacomo, ministro dell'Ambiente, di rilasciare delle dichiarazioni su questa vicenda BP. Potete ben capire che avesse altro da fare in queste giornate, ha ribadito però di non voler aggiungere nulla, quindi ha confermato la volontà dell'Italia di richiedere a livello europeo una moratoria, cioè fermiamoci un attimo tutti noi paesi che ci affacciamo sul Mediterraneo e cerchiamo di capire se con una voce comune possiamo a questo punto chiedere delle certezze, delle garanzie, dei controlli e non solo in termini ambientali. Ricordiamo che nella strage del Golfo del Messico non sono morti solo pesci, senza nulla togliere l'importanza dell'ambiente, ma addirittura lavoratori. Quali sono gli standard che regolano questo settore? Possiamo migliorarli? Questa è la domanda che ci si dovrebbe porre. La stessa posizione dell'Unione Europea, Marlene Holzner. A questo punto la Commissione per l'Energia come si schiera? Sì, noi già da inizio maggio ci siamo detti che il disastro nel Golfo del Messico è tale che noi dobbiamo in Europa far tutto in modo che un disastro simile non può mai succedere in Europa. Quindi al momento stiamo vedendo tutte le direttive che abbiamo, non abbiamo direttive specifiche per piattaforme, però per impianti industriali che già descrivono che ci vogliono essere un livello di sicurezza molto alto, che i materiali utilizzati devono essere di una certa qualità, che ci vogliono anche istruzioni di sicurezza, tutto questo. Però adesso stiamo vedendo se queste direttive, che sono piuttosto generali, sono abbastanza per assicurare veramente la sicurezza più alta che esista per piattaforme petrolifere. Sono abbastanza, punto di domanda, e vogliamo chiedervi proprio questo, cioè le piattaforme petrolifere sono una minaccia in sé, sono pericolose solo quando c'è una fuoriuscita, quando avviene un incidente o deturpano l'ambiente in ogni caso? E lo chiedo al biologo, oggi nostro ospite, Nicola Secchi. Ma ogni struttura che viene realizzata a mare c'ha i suoi problemi, evidentemente, come tutti i manufatti che costruisce l'uomo. Il problema è la gestione, è la sicurezza, la messa in opera di tutta una serie di accorgimenti che consentono di non avere tutti gli effetti collaterali che sono insiti nelle costruzioni umane, ecco, ma questo è un altro problema. Poi c'è il problema paesaggistico, c'è il problema estetico. E c'è il problema della profondità. Vogliamo spiegare, senza scendere troppo nel tecnicismo, come la profondità sia legata al rischio? D'altronde, già nel nome, l'azienda, la piattaforma, diciamo così, di BP nel Golfo del Messico si chiamava Deep Water Horizon, quindi acqua profonda, cioè più è profondo più difficile è? Più è profondo e più difficile è, evidentemente, quando non ci sono ombre di dubbio, e quindi la sicurezza, tutti quanti i sistemi che devono sovrintendere al controllo, alla verifica, devono essere veramente di primo livello e non mai trascurati, perché le notizie che arrivano da quel fronte sono di una certa leggerezza sulla gestione della sicurezza e sulla qualità dei materiali. Grazie per questa prima spiegazione. Ma Marco Magrini del Sole 24 Ore si è buttato a fondo letteralmente in questa vicenda per capire se è un evento ripetibile o se è stato un incidente unico e che ci auguriamo non si ripeta più. Dopo questa tua inchiesta durata mesi e molto dettagliata, che conclusioni, che, che opinione hai, Marco? Ma è quello che accennavi tu prima, cioè che c'è un problema connesso alla profondità. Voglio ricordare che il disastro del Golfo del Messico è avvenuto a oltre 1500 metri di profondità e che questa esplorazione al largo della Libia dovrebbero andare addirittura 200 metri più a fondo, per cui le preoccupazioni sono legittime. E ovviamente maggiore è la profondità e maggiori sono i problemi. Faccio un esempio semplice: abbiamo saputo soltanto negli ultimi giorni che dal Golfo del Messico, da questo incidente, abbiamo un record di versamento di petrolio nel mare, quasi 5 milioni di barili da aprile a oggi, e ha superato in questo modo un altro incidente che era avvenuto nel Golfo del Messico, proprio davanti al Messico. Il pozzo si chiamava Ixtoc nel 1979, ma c'era una grande differenza fra i due pozzi, perché quello Ixtoc era a 50 metri di profondità e qui siamo a un chilometro e mezzo di profondità, dove evidentemente non soltanto garantire la sicurezza è più complicato, ma ci sono anche delle ripercussioni poi effettivamente sul versamento del petrolio. È chiaro, questo è chiaro, ma ora ci chiediamo quello che ci tocca da vicino, cioè questa operazione che riguarda BP ancora una volta nel Mar Mediterraneo e si avvera da qui a breve. A che profondità sarà? Circa 1700 metri, quindi 100-200 metri più in basso rispetto alla piattaforma dell'ultimo incidente, perché tu giustamente ci hai segnalato, non è stato l'unico, è stato il più grande, ma non è un episodio unico. È giusto anche dar la parola a chi lavora nel settore minerario, costituito in genere da tecnici ingegneri di primo piano e di primo livello, che naturalmente non hanno nessun interesse ad andare in giro a rovinare la terra. Allora, abbiamo contattato BP e non saranno presenti in questa trasmissione, ma ritengono opportuno che leggiamo la loro posizione. Lo facciamo, infatti nel maggio del 2007 BP ha siglato un accordo con la National Oil Corporation, ci hanno fatto sapere, che è una corporation libica, per l'accesso all'esplorazione dei bacini offshore nel Golfo della Sirte e onshore nel Gadames. La prima fase di acquisizione delle aree della Sirte si è conclusa a settembre del 2009, mentre l'acquisizione dell'area di Gadames è tuttora in corso. Nel secondo semestre del 2010, BP darà inizio alle operazioni di trivellazione. Allora, facciamo un conto, siamo ad agosto, qui si parla di secondo semestre del 2010, ecco, forse qualcosa è già iniziato, i controlli e le pianificazioni conclusive sono tuttora in corso, ci dice BP. BP sta lavorando a stretto contatto con la National Oil Corporation libica e altre entità governative per prepararsi alle operazioni. Per BP la sicurezza, la salute delle persone, la salvaguardia dell'ambiente, health, security, safety and environment, ci specificano, rimangono l'assoluta priorità. Le lezioni apprese dal tragico incidente nel Golfo del Messico saranno al primo posto in tutte le operazioni presenti e future di BP e dell'industria petrolifera sia in Libia che altrove. Questo è quanto dovuto alla controparte, chiamiamola così, dal punto di vista giornalistico, di bianco o nero, che ha sempre due posizioni molto nette. Oggi abbiamo un pezzo di carta invece della contrapposizione, ma abbiamo dato voce anche a queste rassicurazioni. Marlene Holzner, torniamo in Europa. Innanzitutto, di chi è la sovranità quando si parla di trivellazioni offshore? Chi può intervenire? Chi può richiedere controlli, certezze e garanzie? Il fatto è che è solo il governo nazionale che dà la licenza, cioè lui decide, io do questa licenza a una tale compagnia, a una ditta, e lui stabilisce anche i criteri. Noi come Commissione, come livello europeo, in questo momento non possiamo intervenire. Però una volta che si incomincia la costruzione, sono le nostre direttive di sicurezza, anche direttive che riguardano l'ambiente, che devono essere rispettate. Vale a dire che poi anche è il governo nazionale che deve fare i controlli sul posto, vedere che i sistemi di allarme sono esistono, che ci sono specifici marchi, che quali materiali sono utilizzati, tutto secondo le direttive europee. Ma se la decisione di uno può danneggiare la costa di un altro, non esistono accordi sovranazionali, internazionali fino a questo punto in questo settore? Sì, queste direttive ovviamente sono solo europee e valgono per gli stati membri europei. Per quanto riguarda il Mediterraneo, con la Libia molto più difficile. La cosa un po' triste dovrei dire che c'è un protocollo internazionale per la protezione del mare, il mar Mediterraneo, però manca un'unica ratificazione e quindi non è ancora in vigore. Ed è anche vero che la Libia ha ratificato, ma altri no. Altri no, vogliamo fare i nomi, vogliamo citarli quelli che non sì, hanno vogliamo firmato? Citarli sì, perché parliamo dell'Italia, della Grecia, della Slovenia e la Spagna, hanno firmato però non ratificato. Quindi poi andiamo così in sede internazionale a chiedere moratorie e anche i primi passi pratici, fattibili per la tutela dell'ambiente, delle nostre coste, non vengono seguite da azioni specifiche del governo. A proposito di tutela, ripetiamolo, le trivelle non sono una novità in Italia, infatti proprio in Italia ci sono state delle proteste, va detto in questo senso, transpartitico, trasversali, ci sono stati comuni guidati dalla Lega in cui si sono visti i leghisti insieme al PD, ci sono visti agricoltori con insegnanti universitari insieme per protestare contro i danni di eventuali trivellazioni o di trivellazioni che già erano state programmate, iniziate, sono state bloccate come nel parco del Curone in Brianza. Però trivelle e piattaforme si sono viste, si vedono alle isole Tremiti, si vedono in Sicilia, nel mare di Cagliari, di Oristano, a sud dell'Elba, come ci segnala un'altra inchiesta di Repubblica. E in questo caso specifico la preoccupazione nasce da alcune caratteristiche tecniche di questa trivellazione. A questo punto tra i nostri ascoltatori sono preoccupati il 43% di chi sta votando sul sito di Radio 24, non è preoccupato per niente per le sorti del Mediterraneo, il 57%. Partecipate anche voi se volete sul sito radio24.it oppure inviandoci un sms al 349-238-6666. Se volete dire qualcosa ai nostri ospiti, ai nostri esperti di persona, il numero di telefono è l'800-24-0024. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E ancora al microfono Irene Zerbini, ci stiamo chiedendo se il Mediterraneo sia o meno a rischio. Tornerei dal nostro biologo dei mari, diciamo così per semplificare la sua specialità in scienze botaniche, ecologiche e geologiche, naturalmente all'Università di Sassari. Non me ne voglia, professor Secchi, per capirci, biologo del mare. Ci sono delle specie a rischio nel Mediterraneo per queste operazioni? Ma l'intero mare che è a rischio, il mar Mediterraneo in realtà è un piccolo mare, non ha niente a che vedere con il Golfo del Messico, quindi un eventuale incidente come quello del Golfo del Messico avrebbe esiti assolutamente più devastanti, possiamo più dire. Più devastanti, certo. Allora, considerato poi che il mar Mediterraneo è un hotspot mondiale della biodiversità, gli esiti sarebbero ancora più impressionanti. E questo perché? Perché non ci sarebbe una possibilità ancora inferiore di ripulirlo, diciamo così, in maniera naturale, con quelle correnti che invece spazzano il golfo? Perché? Certo, il mare è piccolo, il mar Mediterraneo è proprio una piccola entità rispetto all'Oceano Atlantico e alle sue articolazioni collaterali. E qui la specificità del Mar Mediterraneo, il Mar di Levante poi, che è un mare che ha caratteristiche peculiari rispetto al bacino collaterale con l'Oceano Atlantico e quindi tutta una serie di aspetti ecologici di estrema rilevanza che metterebbero a rischio veramente un tremendo. Quindi voi biologi marini siete contrari alla trivellazione, all'estrazione del greggio nel mar Mediterraneo, siete per la moratoria, in che posizione si pone la scienza? Ma non è la questione di essere contrari o essere favorevoli, purtroppo a noi umani, diciamo così, il petrolio ci serve per mille questioni e quindi il problema non è quello, il problema è che l'Italia ad esempio è perforata da tanti pozzi, li abbiamo gestiti bene, nel mare Adriatico ce ne sono tantissimi, è vero che la batimetrica è ridotta e quindi i problemi si riducono significativamente, il problema, ritorno sempre al punto iniziale, è quella della sicurezza, è quella del fare i lavori ben fatti, di non trascurare quindi neanche una minima questione che possa determinare questi problemi. E cos'è che uno standard di sicurezza che potrebbe essere considerato soddisfacente? Magrini, giornalista del Sole 24 Ore. Ma come dicevo prima, trovo che il rischio potenziale a cui accennava Secchi dipende molto sempre, ritorniamo al tema della profondità, perché un conto è un pozzo a 50 metri di profondità, un conto è un pozzo a 1700 metri. Ci hanno detto nelle ultime settimane che il disastro ambientale nel Golfo del Messico sembra essere leggermente inferiore alle previsioni, però è un'affermazione questa che mi lascia un po' perplesso per una serie di motivi, il primo dei quali è che la BP ha affrontato il problema del Golfo del Messico con grandi quantità di solventi che hanno sciolto il petrolio formando delle goccioline che sono andate a precipitare nel fondo. Ora, nel fondo, essendo così profondo, nessuno sa che cosa veramente ci sia nelle profondità del Golfo del Messico. Cioè proprio questi solventi, tu dici, potrebbero essere ancora più dannosi del greggio? Esattamente, ho il sospetto di sì, perché il petrolio quando riesce ad affondare grazie ai solventi a quelle profondità, il sole non arriva granché a quelle profondità e quindi il suo effetto fotodegradante non funziona. I batteri che naturalmente esistono nel mare e che mangiano, fra virgolette, il petrolio a quelle profondità non esistono. E ovviamente la bassissima temperatura che si può trovare nel mare a 1,5 km di profondità certo non aiuta. Quindi è un punto che abbiamo capito, cioè a quelle profondità difficile anche fornire, anche in buona fede, delle garanzie. Ma sentiamo con i diretti interessati, per esempio il direttore generale delle risorse minerarie ed energetiche dello sviluppo economico è con noi, ci ha raggiunto telefonicamente, Franco Terlizzese, e lo ringrazio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Visto che abbiamo così espresso diverse preoccupazioni, voi che lavorate con le autorizzazioni, voi che lavorate a stretto contatto con chi vi deve fornire delle garanzie, come vi sentite? Ora il ministro, la Stefania Prestigiacomo, ha chiesto una moratoria e rappresenta il Ministero per l'Ambiente. Il suo ministero si allinea a questa richiesta, immagino. Il governo italiano sta lavorando allo studio delle cause, delle circostanze dell'incidente del Golfo del Messico per capire e per apprendere quello che è successo in un contesto completamente diverso da quello italiano. Sì. In Italia, come diceva prima il biologo, abbiamo da 60 anni moltissimi pozzi perforati in produzione senza grandi problemi, senza nessun problema per il territorio. Abbiamo una normativa di recepimento europeo che sta funzionando piuttosto bene, l'abbiamo verificata attentamente proprio in questi ultimi 2 o 3 mesi. Cioè cosa dice questa normativa? Ma la normativa prevede che per effettuare qualunque perforazione debba essere prima fatta una valutazione ambientale e debba essere anche fatta una valutazione tecnica da un corpo specializzato di tecnici che dipende da noi, quindi sono 2 ministeri diversi. Il Ministero dell'Ambiente si occupa dello studio ambientale, il nostro Ministero che si occupa dello studio tecnico e che lo approva, e dal complesso di queste autorizzazioni arrivano le possibilità di perforare pozzi in acque non profonde, perché come dicevate prima, noi al momento in Italia non abbiamo moratorie, ma di fatto ce le abbiamo perché sui nostri tavoli in questo momento non c'è un progetto di un pozzo in acque profonde. E questo è chiaro, ma le devo fare una domanda, Terlizzese, scusi, il tempo prego. Stringe, ci sono nodi fondamentali per chi non lavora tutti i giorni su queste problematiche. Lei ha detto facciamo degli assessment, delle valutazioni ambientali come ministero, ma quando poi si va a perforare nel Golfo della Sirte, in questo caso, le valutazioni ambientali chi le deve fornire? ogni Stato è sovrano nelle proprie acque territoriali e nella propria piattaforma continentale. Quindi in questo caso l'osservazione e la preoccupazione di avere una visione comune dei problemi del Mediterraneo, perché il Mediterraneo è un mare particolare in cui gli errori di uno si ripercuotono su tutti, però è questo le che inquieta. Sono indipendenti. Chiaro, fino a questo punto sì, però la valutazione ambientale della Libia può essere positiva, naturalmente ci sono anche ragioni, e lo sappiamo bene, interessi economici, e poi il danno non si fermerà al confine o sulla costa italiana per rispetto dei pesci che produciamo noi sull'Adriatico o in Sicilia. Voglio ricordare semplicemente alcune distanze. Lampedusa, da questa piattaforma, Golfo della Sirte 591 km, la Sicilia 560 km, Malta 515 km, la Grecia 600. La Tunisia anche è toccata, ricordiamo i paesi che si affacciano appunto su questo mare. E fino alle trivellazioni in casa nostra possiamo fornire delle valutazioni ambientali senza chiedere niente a nessuno. Ora servirebbe una voce comune. Voglio chiedere al commissario, alla Commissione Energetica Europea, oggi nostro ospite, se hanno valore vincolante poi le cose che vengono dette in sede di Commissione all'Energia. Günther Oettinger ha suggerito ai governi europei di fare una moratoria, di fermarsi, di aspettare finché non saranno chiarite le cause del disastro nel Golfo del Messico, ma poi gli stati non hanno alcun obbligo di ascoltarlo, dico bene? Sì, questo è vero, però se parliamo del mare Mediterraneo e anche di questo fatto specifico della Libia, dobbiamo parlare di questo protocollo per la protezione del mare Mediterraneo. Infatti la Libia, il Marocco, la Tunisia l'hanno ratificato. Noi come Commissione Europea possiamo cercare fare in modo che un altro Stato come l'Italia oppure la Grecia lo ratifica. In questo caso anche la Libia, anche il Marocco, anche la Tunisia dovrebbero rispettare certe norme. Quando loro danno le licenze, l'autorizzazione, che anche essi devono fare questi studi di ambientale. Ha sentito Terlizzese? Ha sentito Terlizzese, quindi sull'Italia grava anche questa mancata ratifica. Sì, questo non è stato fatto, ma non solo l'Italia, ma anche la Grecia non ha ratificato, la Slovenia, la Spagna. Se uno di questi stati membri lo ratifica, entra in vigore, e la Libia, anche Marocco e Tunisia dovrebbero rispettare queste norme, che sono piuttosto quelle che abbiamo anche all'Europa, Grazie Marlena. Ci si aspetta, Terlizzese ci sa spiegare le ragioni di questa mancata ratifica? Io le posso dire che ci siamo recati a Bruxelles 15 giorni fa dal commissario Oettinger, e che si è mostrato molto sensibile al problema mediterraneo, il problema centrale da affrontare in Europa, il problema dei mari del nord, ma si sono dimostrati molto sensibili. Nei prossimi mesi sicuramente intavoleremo un confronto. Nei prossimi mesi però intanto le trivelle partono. Della compagnia britannica BP, in quelle condizioni che abbiamo stabilito con i nostri esperti, non sono certificabili dal punto di vista della sicurezza al 100% ancora. Intanto grazie a tutti voi, a Franco Terlizzese, direttore generale delle risorse minerarie e energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, grazie a Marco Magrini, a Marlene Holzner, Nicola Secchi, a tutti voi che ci avete seguito fino a questo punto. 44% degli ascoltatori di Radio 24 preoccupati per le sorti del Mediterraneo, continuate a votare www.radio24.it. Un saluto da Irene Zerbini.